Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 409, nella quale parleremo di negazionismi cartesiani, animali ribelli, toreri temerari, alberi che resistono e briganti golosi. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Gli animali sono privi di ragione e di coscienza e non provano dolore. Anche quando sembrano manifestare sofferenza, in realtà reagiscono meccanicamente a una stimolazione materiale, come quando, toccando una molla dell'orologio, le sue lancette si muovono. L'autore di questa affermazione è Cartesio, filosofo del 1600, più famoso per la locuzione «cogito ergo sum». Eppure ancora oggi c'è chi nega che gli animali possano provare dolore. E non ci riferiamo a un singolo individuo un po' retrogrado. Ci riferiamo al Parlamento della democrazia più antica del mondo. Nell'ambito del dibattito sull'uscita dall'Unione Europea, la Brexit, i deputati inglesi devono adottare, modificare o cancellare dall'ordinamento giudiziario nazionale 40 anni di leggi dell'Unione Europea. In questo contesto, la parlamentare dei Verdi, Caroline Lucas, ha proposto di inserire nella legislazione britannica la norma europea secondo cui gli animali sentono il dolore e le emozioni in modo simile agli esseri umani. Ma l'iniziativa, su pressione dei conservatori, il partito di maggioranza relativa, è stata respinta, con 313 voti contrari e soltanto 295 favorevoli. Come abbiamo sostenuto la settimana scorsa, ci può essere solo un motivo per negare che gli animali abbiano lo status di creature senzienti, e questo motivo è il loro sfruttamento. Viene però da chiedersi quali conseguenze avrà questa decisione. Concretamente, in effetti, il riconoscimento della natura senziente degli animali non ha avuto molti riscontri reali legislativi. In Europa si continua a cacciare, si continua a sperimentare sugli animali nei laboratori, a produrre carne, derivati, pellicce, pelli. si continua a sfruttare o uccidere animali per puro intrattenimento. Quindi la conseguenza del voto del Parlamento inglese consiste essenzialmente nell'abolizione della speranza di ottenere più diritti per gli animali, come afferma l'avvocato Prisco nel blog vegolosi.it. In Europa, il Trattato di Lisbona, che stabilisce che gli animali sono esseri senzienti, dà del margine per lottare. Ecco, nel Regno Unito questo margine è stato del tutto annullato. Dovremo tenere presenti anche questi aspetti, apparentemente secondari, quando si prende posizione pro o contro l'Europa. Su questo tema abbiamo chiesto un parere filosofico al professor Luigi Lombardi Vallauri. Devo dire che l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa mi addolora profondamente e la disapprovo. Io sono un europeista convinto, ho studiato in francese, in tedesco, in tutte le lingue europee. Nei primi anni 70 ho fondato il MIUE, Movimento per l'Integrazione Universitaria Europea, che voleva europeizzare proprio lo studio dell'Europa, fino ai concorsi nazionali con commissari esterni, soggiorni obbligatori all'estero. Io considero l'Europa la più originale costruzione politica della storia umana, perché è una unione di ex imperi. La Spagna non è il Texas, la Francia non è l'Oklahoma. Ha dominato il mondo e ha ottenuto un'unione basata anche sulla terribile storia di guerre interne e di guerre esterne, che io considero una creazione straordinaria. Prima c'erano solo le città o gli imperi, l'Europa è il multiverso delle libertà. Quindi, detto ciò, sul punto specifico, se il Parlamento ha votato che gli animali non hanno sentience, non hanno sensazioni e emozioni, ha commesso un atto assurdo, perché i fatti scientifici non si decidono a colpi di maggioranze parlamentari. Il Parlamento non ha autorità in biologia, etologia, neurologia, zoologia. Insomma, non si può legiferare scienza. A colpi di maggioranza stabilire che cosa è giusto in matematica, in fisica, eccetera. Per di più è stata una maggioranza molto piccola, 313 contro 295, ma non è questo il punto. Invece può darsi che il Parlamento abbia solo voluto sganciarsi dalla normativa europea e magari sostenendo che quella inglese è sufficiente. Io non conosco abbastanza l'Animal Welfare Act e la legislazione nazionale inglese. Certamente l'Inghilterra è stata un precursore dell'animalismo fin dall'Ottocento. Io ho qui il libro di Gandhi, Antiche come le montagne, la sua autobiografia, in cui racconta la sua felicità quando a Londra, dopo aver letto Salt, il libro che inaugura, si può dire, il vegetarianismo moderno di un inglese, ha scoperto finalmente un ristorante vegetariano a cui andava tutti i giorni facendo chilometri a piedi, e queste cose a quell'epoca in Italia non ce le sognavamo neanche. Quindi vorrei richiamare l'Inghilterra a una sua tradizione di precursore. D'altra parte, se l'Inghilterra, se la Gran Bretagna abbassasse molto le soglie di protezione degli animali, secondo me l'Unione Europea avrebbe titolo a sanzioni commerciali, cioè a ridurre gli acquisti di pellicce o di altri prodotti, anche alimentari, non garantiti a livello europeo. Ma in questo, come in tutti gli altri casi, l'essenziale, il decisivo, è poi sempre la metanoia, la conversione del cuore. We'll be right back. storia che ci viene raccontata fin da bambini è che gli animali sono lì per noi, che il loro sfruttamento, da parte nostra, è fatale, come la pioggia che cade dal cielo. Qualcosa che è sempre esistito e che sempre esisterà. Le fattorie didattiche, d'altra parte, sono un modo per familiarizzare con lo status quo. Noi li trattiamo bene, gli diamo da mangiare, li proteggiamo e in cambio loro ci regalano il loro latte, le loro uova, la loro carne. Eppure dalle cronache affiorano sporadicamente vicende che mettono in crisi questo quadretto rassicurante. Mucche in fuga dopo aver sfondato recinzioni, maiali che si lanciano nel vuoto da camion in corsa, elefanti ribelli, circensi che inseguono tigri e giraffe che vagano in contesti urbani, visitatori di zoo o guardiani aggrediti e uccisi, e di questi casi si parla pochissimo. Sia perché i dispositivi della coercizione e dello sfruttamento sono molto solidi, ben collaudati, sia perché non è auspicabile che la massa, quella massa che, ricordiamoci, in finanza si chiama parco buoi, si faccia troppe domande. Per fortuna c'è un blog, resistenzaanimale.noblogs.org. Questo blog censisce gli episodi di fuga e ribellione che affiorano nei media e che testimoniano che non c'è alcun patto di non belligeranza tra uomini e animali sfruttati. Ogni qualvolta se ne presenta l'occasione, gli animali sfruttati fanno quello che è più appropriato e naturale, cioè si rivoltano, fuggono, cercando spesso senza successo la libertà che gli è stata rubata. Abbiamo fatto questa lunga premessa per presentarvi un libro intitolato Animali in rivolta. Confini, resistenza e solidarietà umana, edizioni Mimesis, della sociologa statunitense Sarah Colling, curato da Femminosca e Marco Reggio, che fa parte anche della redazione del blog Resistenza Animale. Sentiamo l'intervista della nostra intraprendente e ostinata corrispondente da Milano, Roberta Marino, a uno dei curatori. Terminata la presentazione del libro Animali in rivolta di Sarah Colling, curato da Marco Reggio e da Femminosca. Sono qua con Marco Reggio. Qual è l'approccio postcoloniale del libro di cui avete parlato? Colling analizza le storie di resistenza di una serie di animali negli ultimi due secoli, sostanzialmente, prevalentemente bovini da allevamento che fuggono dal mattatoio o dall'allevamento, appunto, e irrompono nelle strade cittadine e scompaginano un po' tutto lo spazio urbano. Interpretare queste storie, vedere il loro significato politico, possibile secondo Sarah Colling, avvalendosi appunto degli strumenti del femminismo transnazionale, postcoloniale, che, come dire, adotta uno sguardo non paternalista, in cui le vittime non sono appunto soggetti passivi, vittime passive, ma in realtà sono soggetti autonomi che decidono anche come rompere lo spazio e che in qualche modo contestano fisicamente, ma di fatto anche simbolicamente, i confini, le frontiere. E l'idea è proprio che ci sia questo superamento, questa destabilizzazione, questa forzatura dei confini che poi anche gli umani sono in qualche modo costretti a mettere in discussione quando vedono per esempio una mucca che irrompe nelle strade della città e mostra concretamente quello che normalmente è tenuto ai margini, cioè appunto la realtà del mattatoio, che tra l'altro secondo Colling è una realtà che è stata estromessa dal centro cittadino proprio a causa delle continue fughe imbarazzanti, diciamo, delle mucche, dei tori e di altri animali. Qual è appunto il ruolo delle ribellioni nella messa in discussione delle modalità con cui i consumatori prendono le distanze dalla violenza della zootecnia? È un ruolo sostanzialmente scioccante. Fondamentalmente la mucca che scappa nelle strade di New York o di Milano incontra direttamente quelli che probabilmente nella sua vita non avrebbe mai potuto incontrare, che sono quelli che poi vanno al supermercato a mangiare i pezzi del corpo, e in qualche modo chiede loro conto direttamente della liceità di questa pratica. qual è la prospettiva che viene definita dal basso e dall'alto con la quale l'autrice comunque affronta il tema della resistenza animale? La prospettiva dall'alto è sostanzialmente comunque la prospettiva di chi ha il privilegio, dei dominanti, magari anche ben intenzionati, magari anche benevoli, che quindi sono compassionevoli per esempio nei confronti dell'animale che si ribella, ma che non sono disposti a dargli davvero la parola. È quella prospettiva, anche se vogliamo, dei resoconti giornalistici che riempiono di virgolette i termini che riguardano le ribellioni animali, quindi l'animale evade ma tra virgolette, fugge ma tra virgolette, mentre la prospettiva dal basso è quella prospettiva che fa emergere veramente quello che c'è come desiderio, come volontà alla base della fuga, per esempio, della ribellione, e che quindi, come dire, ricostruisce anche la storia. Ribal, che è uno studioso della resistenza animale, per esempio, prova a ricostruire tutta una serie di lotte umane per gli animali, che noi consideriamo lotte originate così dalla buona coscienza di alcune elite intellettuali o sociali, che in realtà in buona parte sono state suscitate dagli animali stessi. Spesso la strategia giornalistica per depotenziare queste ribellioni, oltre a non parlarne spesso, oltre a parlarle in modo folcloristico eccetera, è quella invece di creare il caso eccezionale. Quindi quella mucca che si è ribellata è un caso eccezionale, anzi si può fare persino una campagna, se vogliamo, per la sua grazia, ma che sia una grazia, no? Così, per, diciamo, benevolenza, no? E quindi questo per allontanare il rischio che qualcuno inizi a pensare che quell'animale lì che si ribella in qualche modo non è altro che un portavoce di tanti altri che non hanno avuto la forza magari di scavalcare un recinto. A Ribelli e Briganti è dedicata anche la ricetta della settimana. Ricordiamo che la nostra rubrica di cucina, Il Pasto Gentile, è curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà. Durante le presentazioni di libri o lezioni di cucina, suggerisco ai partecipanti che la cosa migliore per seguire una ricetta è disobbedire, ribellarsi a ciò che è scritto nelle pagine del libro e dar vita a nuovi piatti. E se di ribellione si parla, la ricetta di oggi è quella del pan brigante, che sfamava i briganti calabresi nell'Ottocento. Gli ingredienti sono 100 g di sciroppo di agave, 100 g di noci, 50 g di nocciole, 100 g di fichi secchi, 100 g di uvetta, 50 g di castagne cotte e pelate, 50 g di scorze d'arancia o cedro candito, 100 g di farina zero, la scorza grattugiata di mezza arancia e di mezzo limone, un pizzico di cannella in polvere, bacca di vaniglia e un pizzico di sale. Lasciate in ammollo l'uvetta in acqua tiepida o vino dolce. Nel frattempo tritate la frutta secca, devono essere pezzi non troppo fini. Scolate l'uvetta e unite tutti gli ingredienti in una terrina mescolando bene. Versate il composto così ottenuto in una teglia con della carta forno. Stendete l'impasto realizzando un rettangolo di 3 cm di altezza. Infornate a 160 gradi per 40 minuti, quindi lasciate raffreddare. Tagliate a pezzetti e servite. Oppure conservate in barattoli da biscotti. oggi restiamo ancora tra i ritmi serrati e vi propongo gli Youth of Today, attivi dal 1985. È una band hardcore punk animalista americana, composta interamente da newyorkesi, che da qualche anno però è inattiva. Nel 1988 pubblicano No More, brano che nel testo e nel video è un manifesto contro la sofferenza animale, e vi suggerisco di andare a guardare anche il video. Sicuramente su queste note Camilla, Roberta e Francesca faranno emergere la natura punk che è nascosta in loro, facendole pogare con inaudita veemenza. Buon ascolto. No more. No more. Tema di animali in rivolta, andiamo in Messico e parliamo di un torero. La prima volta Luis David Adame è stato speronato ai testicoli nel marzo del 2016, quando sfidò il toro in una corrida nella regione di Aguascalientes. Il torero, in ginocchio, provocò l'animale con il suo mantello e il toro, con grande rapidità e facilità, con un colpo solo, sollevò il ragazzo dallo scroto, facendolo poi balzare a terra. Un secondo incidente allo stesso torero è occorso sabato 18 novembre a Plaza de Toros di Santa Maria de Querétaro. In questa occasione David, in una mossa sbagliata, si è visto di colpo le corna del toro puntate sulle parti intime. L'animale ha fatto roteare in aria il matador afferrandolo per i testicoli. Il torero è stato quindi trasferito a Città del Messico per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante le due brutte esperienze, il torero David ha già affermato di voler tornare al più presto nell'arena e c'è già chi dice «non c'è due senza tre». Chi invece non ha avuto una seconda possibilità è stato il toro, perché nessun toro esce vivo dalla corrida, anche quando sopravvive alle sevizie del torero. E dal Messico ci spostiamo negli Stati Uniti, per la precisione in California. Ricordate Julia Butterfly Hill? La intervistammo nell'ottobre 2016. Si tratta della ragazza che visse per 738 giorni su una sequoia chiamata Luna, in California, in cima a una piccola piattaforma a circa 55 metri di altezza, per impedire l'abbattimento di Luna, cioè della sequoia, da parte della Pacific Lumber Company. Questo dicembre sono 20 anni dalla salita di Julia su Luna e la casa editrice Terra Nuova sta uscendo con una nuova edizione del libro illustrato La ragazza sull'albero, che racconta la storia di Julia. La prossima puntata di Restiamo Animali sarà dedicata a questa appassionata ambientalista e al suo coraggio, con una intervista esclusiva. Non perdetevi quindi l'appuntamento con la puntata numero 410 di Restiamo Animali. Tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.